non dovesse rientrare per tempo, prima che tu chiuda la stazione. Comunque ti mando avanti Gianfranco, così almeno lui ti ascolta e ti saluta direttamente. Vai Gianfranco. Sì, non so se mi senti perché segnale quello è. Ciao. Sta andando in orizzontale, sento il bisbiglio ma non capisco quello che dice. Vabbè Fortunato, cosa vuoi che ti dica? Ti mando allora a questo punto, ti mando Nicola. Dimenticare. Ciao Ale. Ciao Fortunato. Ciao Nicola, ciao, tanti auguri anche a te, fatti sentire domani, magari ci aggiorniamo, dai. Ciao anche a Fortunato, cordialità, saluti, un abbraccio e tanti auguri di buon Natale se non ci sentiamo. Avanti Giulio, ma Gianfranco che fine ha fatto? Gianfranco, la posizione orizzontale c'è molto scarso, io vado benissimo a posizione orizzontale, caspita, arrivo a Santiago Nova, era Giulio, tu proprio zero. Sì. Ma te ne è abbastanza grande, ti ho detto. Mi senti così perché innanzitutto sono a bassa potenza, ma tu figurati che stamane io stavo provando, no? Con potenza anche inferiore a questa e mi hanno risposto da Torino in 40. Da Torino hanno iniziato a uscire tutti, Sassari, mi ascolti, eccetera. Io ho detto, ma stiamo scherzando. Rendere moltissimo di lì, di quelle in 160, in 80, in tutte le altre, qua ovviamente rende di meno, capito? Perché poi è troppo alta e troppo lunga anche l'antenna. Ho capito, Giulio non ti sente però, cosa vuoi ti dica? Avanti Giulio, riprendi. Sì, infatti stavo aspettando che mi passasse il microfono perché mi hanno chiamato e devo scendere giù, dai, ci sentiamo voi dopo. Al momento vi saluto, ci sentiamo dopo, dai, vediamo un po' cosa vogliono qui in famiglia. Riprendi Nicola, ritorno dopo. Va bene Nicola, dai, ci sentiamo più tardi, avanti Gianfranco. Ok Nicola, ciao, auguroni e buona serata. Alle prossime H155 Belden, ricordati, come l'RG58, un pochino più rigido, però non c'è paragone, è tutta un'altra cosa, così almeno sei sicuro che sei più schermato anche, soprattutto se ci sono vicine antenne. Claudio, guarda, adesso ti faccio la prova, siccome ne ho tre di antenne, anzi quattro, ho preso da questa. Commuto un attimino, su quella di prima mi senti basso, anzi ne approfitto proprio perché mi senti basso. Vediamo un po', tac, ecco, confermi che mi senti basso adesso, quanto sta giusto? 20, da 9 a 20 a 9. Ottimo, siccome deve avere anche parecchia direttività, adesso commuto antenna 1 o antenna 2, quindi di polo sempre da 160 a 160, multibanda, guarda, tac, ecco qua, dimmi se questo è più direttivo o meno verso di te, o se addirittura non mi sento. No, non si è mosso il segnale, sempre Santiago 9. Ok, perfetto, adesso metto una. Commuto in antenna con inversione verticale con le HF, sperando che scatti l'accordatore, perché automatica questa. Andato, vediamo un po'. Cosa ha funzionato? Mi senti ora? Sì, quasi 9 più 10, 9, 5, sì. Perché questo deve avere il tempo da accordare. Questo è il verticale a terra, proprio a terra nel senso che a terra a meno di un metro dalla terra, per essere per le bande lo stesso, questa credo che arrivi a 80 metri anche, non me lo ricordo più. Poi ti volevo dire una cosa ma sono dimenticato, carta che rimbambito, bobo, chissà l'altro anno è ancora peggio penso. Sta parlando nessuno, vabbè, la prossima non ci pensiamo. No vabbè, la polarizzazione orizzontale anch'io, come ho fatto e ti ascolto molto molto meglio. Va bene, vabbè, questo segnale 9.20 di Sugar. Giovanni 9.20 e il Mario 9.20. appeso a 3 metri da terra dal piano del tetto. Il mio tetto è tutto in rivestimento in alluminio, c'è un piano rimasto allucinante, e fa 10, 15, 20, 40 e 80. Capito? Quando giro quello di 10, va c'è una meraviglia, non ci sono manco stazionari, manco correttore, c'è uno di stazionari in 10 metri. Favoloso sto piccolo, funziona molto bene, c'ho dei segnaloni allucinanti. Sì, da vicino sì, da vicino si mette il più basso possibile la terra, le famose antenne tipo quelle militari, no, tipo quelle della protezione civile, le mettono a pochi metri, quello che sta male c'è a 4 metri da terra appena, giusto per poter arrivare in ambito locale, quindi a coprire l'Italia, arrivava fortissimo Roberto da Torino. Poi mi ha chiamato un altro che era dove era? Nella zona dove c'è la neve, adesso non mi viene, comunque in quelle zone sciistiche, dai, arrivavo sto bene Carlo, e io ero con 2 watt, infatti ho detto ma sta rimbambendo il coso del wattmetro, poi ho guardato, in effetti c'era appena il 20% di potenza, neanche, saranno forse anche 15. andava che era una scheggia, ma ho detto guarda che sei 9, 10 la radio perfetta, con sempre un dipoli, erano tutti un dipoli. Ok, niente, questo quanto è lungo? Ne ho 2 lunghi autocostruiti rigorosamente, che sono 40-40, sono 80 metri ognuno, quindi sono, mettendo queste due, sono 160 metri di cavo elettrico a destra e a sinistra. E niente, uno è messo in una direzione e l'altro nell'altra direzione. Di norma, appena premo, anche ad apparato spento, mi rispondono i russi. È proprio una cosa allucinante. Questa volta sono contento che mi hanno risposto gli italiani, era ora. Va bene allora. Giappa. Ok. No, questa postazione qua dove c'è l'HF è già. C'è il dipolo e la verticale. C'è il dipolo a 5 bande e la verticale. Adesso cambia postazione però. Allora un po' nell'altra base, così esco un po' col baracchino che non lo sto usando in questi giorni, aspetta che commuto. Fai. Perché? E tu, c'è un rumoraccio. Niente, che è successo? Male, innesco micidiale, santa voce. Attento, per il Vella. Sempre male, sempre innesco. Idem, sempre male. Che è successo? Ecco, adesso almeno il fischio l'ho sentito, però ci ha preso questo innesco micidiale. Ma chi è, Claudio? Ah, ciao Luca. Sì, Claudio, però c'ha questo innesco, ha cambiato postazione. Controlla il commutatore dell'antenna. Ciao Gianfranco, vabbè. Non sapevo che era lui, di solito credo non esce male, vabbè. Claro. Malissimo, stavolta neanche voce c'è. Stessa cosa, sempre male. Tu Luca lo senti, sì, questo rumoraccio? Giulio, ci sei ancora? Vediamo che è rimasto su 10. Chi c'è? Tu rientro di RF da una base all'altra, cazzo, cos'è una radio, sono tutte nuove. Un innesco, un rientro di RF dalla commutazione di una scrivania all'altra, non lo so cosa è successo. Mi sono attaccato qualcosa facendo pulizia a mia figlia, qualche spinotta, in qualche PL, controlla. Ora. Guarda se questo lo fa. Sembra di no. Vabbè Claudio, ci sei? Sei impegnato ancora in quella riparazione. Claudio, buttaci tutto! È il solito microfono. Una fregatura. Cose che capitano, dai, tra poco dovrebbe rientrare. Ma vuoi ridere? Allora, ieri... Solo un attimo. Ah, stavo dicendo, siccome... Io su Facebook ho un gruppo, no? Vendo scambio e tutte ballacche. Questa ragazza ha messo questo telefono della cordless della Panasonic. C'era dalla foto si vedeva che era nuovo. Infatti quando ci siamo incontrati, il telefono è abbastanza nuovo. Solo che quando lo mette a caricare la batteria non lo assegna. L'ho contattato e gli ho detto che la batteria non stava caricando. E cosa ha fatto? Poi mi ha bloccato. Per 10 euro, maledetto. Praticamente questo ragazzo ha un account così che non è manco non è cognome suo. Quella gente motivicia, Poi un cordless, ricorda adesso lo tengo in testa, costano già noi, io l'avevo preso della Motorola, credo, del Motorola, che ho Brondi, adesso non me lo ricordo, non costava neanche 20 euro, credo che fosse 16 euro, funzionava benissimo, nuovo, proprio da chi era? Da Troni, credo. O giù di lì. Sì, vabbè, cioè, gli altri, ma sei sicuro che funziona? Sì, sì, sì. Poi, non avendo un suo profilo reale, ecco, come il mio, perché il mio è un profilo reale, non è con altri nomi. In più c'ho la mascherina, vai tu e cercala questo. Perché sono gente, come si dice in stasera, tra l'allirami, quelle futivici. Sì, vabbè, ma cioè, no, che senso ha? Però se io lo vedo riconosco la capigliatura di vostro ragazzo e abita a Sant'Orso, la mia, abita molto distante da me. La pagina mi ha bloccato, cioè, su Facebook c'è, però ha bloccato solo il mio profilo, maledetto va. Cioè ha bloccato solo a me praticamente, va. Ma facci bene per 10 euro, ma non vai che ne ho 10 euro, sono stati 50. Mai fidarsi, mai, di questa gente. Guarda, io non sono di quelli. C'è una cosa, te la vedo, sei sicuro, te la sovrano perché va bene, altrimenti no. Poi nel caso che non ti va bene, ci rivediamo, ti torno i soldi, mi torni quello che io ti ho dato come era, non rotto. Ma guarda, ripeto, c'è gente che ci vive, di questi giochetti, 10 qua, 15 là, 100 a destra, a sinistra, sono... è gente da 13.000. Sì, vabbè, questo cosa avrà avuto? Boh, una trentina d'anni neanche. Ma non se ne fa la vergogna. Certo, e io molta roba, te vendo quasi che... Cioè, io ti dico, ho regalato roba, no? Roba funzionante, nuova, eccetera, eccetera. Senza volere niente, e quasi ho dovuto pregare io perché l'accettassero. Sai cos'è il discorso? Se vai a fregare il prossimo, poi domani fregheranno a te, capito? Nel senso che non va bene, dai, non va bene. Adesso questo qua, poi ha messo delle batterie, che le batterie vogliono ricaricabili, ne ha messo due così, sono della, se non mi ricordo, della Farta mi sa, non mi ricordo, Panasonic, no, un'altra marca, non mi ricordo, Toshiba mi pare, questo Toshiba, le batterie, però non sono ricaricabili, e non vanno bene. Assolutamente no, quelli lì c'hanno due, quasi tutti c'hanno due stilo di quelle da 1,2, di quelle tipo telecomando, ricaricabili. Sì, sì, infatti, e lui ne ha messo due così, bah, ma carità, vabbè, ormai è andata. Comunque, guarda, adesso non so la marca, se è un Gigaset, Motorola, roba del genere, però quando, se non funziona nel senso che proprio non senti niente, può darsi che devi fare di nuovo il setup per il ricollegamento alla base. No, ho capito, di che cosa? Allora, questi cordless, essendo digitali, molti sono DECT anche, anzi quasi tutti sono anche DECT, li devi associare alla base. Se quello è stato resettato per qualsiasi motivo e ha perduto la base sarebbe il caricabatterie, parole povere, non funzionerà mai, lo senti morto proprio, ma prescinde da quello che puoi fare. Quindi va reinizializzato, quindi dovevi mettere in ricerca per trovare la base. Ah, no, va bene, non funziona. Allora, scusa, io non ho capito, ma funziona o non funziona questo che stanno là? Ho trovato poco fa che il telefono funziona benissimo, abbastanza nuovo, praticamente non mi segna le tacchette della batteria mentre carica, ok? Ah, ho capito. Quindi può essere un problema di carica batteria. Cioè adesso con le ricaricabili ti fa lo stesso magari, no? Sì, sì, sì, sì. Però l'ho lasciato tutta la notte e mi ha caricato la batteria. Però quello di mia madre che è simile, sempre Panasonic. Le batterie quando tu le metti a caricare lampeggia, le tre tacchette che fanno. Però quando è carico si blocca. Questo invece continua ad andare? No, questo rimane fermo, la tacchetta rimane fermo. Cioè tu lo inserisci nella base, fa bip, il bip, no? Scatta mia bomba. È come se la batteria sta caricando, però non me la segna nel display. Ho capito. Vabbè, può essere anche un problema, non è detto che sia un problema, se adesso mai dove lo carica, basta misurare la tensione, se effettivamente è ricaricato sì. Si è a posto, l'importante è che non vada oltre la carica, capito? Perché se va oltre la carica, se continua a erogare energia nonostante siano cariche, può fare danno grave. No, comunque le batterie devono essere ricaricabili, devono essere quelle della Duracell, le ho prese da Bricoman, perché erano nel telefono vecchio e si spegneva sempre. E vabbè, ormai è andata, è cosa per 10 euro, ma... Sai che se... Chi è che mi ha bloccato? Ma se dovessi incontrarlo gliene canto 4. Ma non per i 10 euro, non me ne frega niente. Gli posso anche regalare. E per l'azione. Vabbè. Ne capitano anche di peggio. Sapessi, tipo... Se vedi, no? Quelli singoli che vendono tipo radio, eccetera. Ma è il capitano ricevitore. Perfetto, funzionante. Bello, è dalla Icon. Un 8500. Girava la manopola, si vedevano le frequenze. Peccato che fosse il sordo che balla. L'ho dovuto spedire a Milano per ripararlo e poi l'ho subito dismesso perché non ne voglio infrazione, roba difettosa. E costava un pacco di soldi, capito? E quando c'è questa gente in giro, è un casino. Non so, purtroppo, come dici tu, c'è gente deficiente in giro. Che si rubino anche per 10 euro. Vabbè, l'ha trovata una seconda, ti trova, magari gli spacca la testa pure. Il problema è quando queste cose te le fa anche il negoziante, perché già ce ne sono negozianti furbi ieri, quelli che pensano di sapere il tutto, poi va a vedere cosa c'è dentro, sono tutti apparati disgraziati. Purtroppo sì. Già lo so, vabbè, pazienza. Così adesso mi è venuto in testa di vendere un HF, che è un peccato, ogni tanto faccio queste cazzate e... perché non lo uso, capito? Ed è un coso, un surplus, solo che chi lo vendi? Cioè la maggior parte non capisce un tubo. Lo so. Vabbè, ci vuoi fare. Che ci vuoi fare? Purtroppo è così. È così. Allora, questa volta vedono la 600, pompa dell'acqua, freni, pacchi di nuovi, semi assi, impianto, candele, manicotte. Vendo per passaggio la nuova auto. Cioè, vi è piaciuta? 250 euro la sta vendendo, la 600. Una 600, qual è la 600? Quella, io mi ricordo la vera 600, quella degli anni 60, ma questa è la nuova 600. No, la 600 del 99 questa qua, un mondezzaio, praticamente c'ha 200, aspetta, vediamo un po', c'ha 264.000 chilometri, e ne può andare la benzina pure. Poi tu figurati, quando ero militare a Napoli, di fuori c'era un mercato, no? Un mercato, ma un mercatino più grande di quello di Piazza Vessegni, per intenderci, era, figurati che era sotto il ponte della tangenziale, una cosa enorme, era proprio fuori dalla caserma, e c'era da rimanere a bocca aperta, vendevano di tutto, le scarpe bucate, ne vuoi scarpe bucate, ce le avevano. Io ho capito chi è che poteva comprare le scarpe usate, bucate, che stamare hanno qualche morto pure, cioè cose allucinanti veramente. Però direi che avevo trovato il primo baracchino, diciamo, decente, 23 canali, e funzionava. Mi ricordo che l'ho collegato alla R, no, alla R57, forse 59, adesso non mi ricordo la sigla, che c'era una mega batteria sotto il sedile, e con un pezzo di filo elettrico. Beh, lo sai che mi hanno sentito lì dal Vesuvio. Una cosa micidiale. Ed era una bella radio anche, un baracchino CB, chissà che l'hanno rubato, poveretto. Purtroppo esiste. Guarda, qua c'era un tipo che stava in una, se ti interessa, una Ferrari California DCT, 460 cavalli c'ha. Di cilindrata è, aspetta, cilindrata è 4297, alimentazione a benzina, anno immatricolazione 5 2011, chilometri 19.000, potenza kilowatt 338, la sta vendendo 106.000 euro. Quasi quasi, ci faccio un pensierino, guarda, quanto fa il 0,5 al litro? E forse anche di meno. Per carità. Ascolta, mi hanno detto una cosa ma non ci credo, ma è vero che anche Messina c'ha quella Ferrari, no? Grazie alla Messina? Boh, beh, tutti i soldi che ha girato, penso proprio di sì, Boh. Chissà che fine ha fatto a 80 anni che facendo il fuggiasco, come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Purtroppo sì. A nascondino sta giocando. È morta la sorella, una sorella di 90, se mi sbaglio, 93-97 anni. Alla faccia, caspita, 97 anni. E lui ne ha oltre 80, quindi fate il calcolo, via, ancora va piccandosi, è proprio vero. Erba amara non i muri. Però, vedi, prima era un mito, magari ne parlavano tutti, adesso penso che anche il paese non ci abbia molti amici, perché è come un traditore, capito? Ha tradito anche la fiducia del capo dello Stato, che gli aveva dato la grazia proprio per l'età, per cose, a posto di comportarsi bene con tutti i soldi che aveva, ne ha voluto altri. Quando l'albero è marcio, c'è nulla a fare. Infatti. È quello il problema. Vabbè, chissà dove, dicono che è qua a Sassari. Bel casino. Vabbè, tanto ormai cosa lo chiudono a fare, ormai quello che ha fatto l'è fatto, si fa quanti anni di galea, 10 anni poi vuole dentro, va. Neanche, ma vedi, anch'io la penso così, a quell'età oramai, ma forse anche loro non si stanno impegnando più di tanto, perché qualche settimana fa qua si è visto c'erano due elicotteri cercandolo, però è difficile da capire, capito? Cioè a quell'età uno, anche se è stato un delinquente, dovrei cercare la tranquillità, questo invece va a finire dentro un cassonetto mangiato dai cani, magari ucciso dai suoi stessi amici. Quella è la fine che fanno di norma queste persone. Poi non è una cosa un po' senza senso, capito? Gira stava meglio in carcere per stare fuggiato così. Ma infatti. fa. Quello è il casino. Se lo vedrà lui cosa fare, ma tanto secondo me non ha senso che lui, cioè lui, la giustizia lo prenda, lo metta in carcere, non ha senso secondo me. Ha senso nel senso che non è uno così che ha 80 anni, magari ha fatto qualcosa e sta scappando. Che lui ha tradito, che ha deluso non solo chi gli ha dato fiducia, ma anche probabilmente molti stessi del suo paese, perché ne viene una questione d'onore, capito? E io credo la tua parola, perché è data sotto la parola, sotto il comportamento del condannato. La grazia è una cosa eccezionale, te la danno, ritorni al paese da uomo libero, eccetera, e combini tutti questi casini, allora ci hai preso in giro, capito? La sostanza è quella. E adesso per lo Stato può diventare anche una ripicca a trovarlo vivo o morto. Ed è così, però insomma, che fine brutta, ecco, per un mito anche negativo, se vogliamo, però è sempre una fine brutta. Nei paesi, diciamo, tipo Giappone, eccetera, direbbero che quando uno fa una fine disonorevole, cioè ha perduto l'onore, che di lì dovrebbe essere in quei paesi dove lui la cosa più importante, no? La tipica cosa barbaricina, tutta gente che non firma niente, ti stringe la mano ed è meglio di qualunque firma. E questo invece ha tradito proprio quel comportamento dell'onore che c'era e che ci dovrebbe essere ancora in quelle zone. Sì, senza dubbio, guarda, senza dubbio, è che purtroppo, cioè, lo so, lo Stato, come hai detto tu, Mari, lo vuole prendere sia vivo che sia morto, perché ne ha combinate tante, però vabbè, alla fine, anche se lo mettono dentro, ci muore, ecco, là, diciamo così, muore dentro e via. Ma guarda, secondo come lo trovano, neanche lo mettono dentro, non vuole neanche il carcere, perché se uno ci pensa a 80 anni, scappare da un punto all'altro, ma quanto vuoi reggere? Con il rischio neanche di non trovare sepoltura, proprio di essere buttato lì dentro qualche rocca, qualche grotta, e essere mangiato dagli animali. Non è una fine neanche da cristiano, ammesso che lo sia, capito? È una cosa proprio, non ha visto sicuramente la sorella che moriva, non vedrà gli altri familiari per un ultimo saluto, niente. Ebbene, in effetti è così. Vediamo un po' se Claudio ha risolto. Claudio, no. Sarà incavolato per questo microfono, che poi sono sempre gli stessi, ha detto, che stanno difettando. Lo volevo prendere anch'io, ma non male che non l'ho preso allora. Ah, vedi, mai dire mai. Che microfono era? Quelli ZKG, quelli MD, com'era? MD4, MD3. Ah, l'MB+4. Sì, sicuramente. Capito. Sono tutti dati da, cioè venduti in quel negozio che sappiamo, l'unico che d'altronde c'è oramai, no? Va bene, sono il MB+4, va bene, l'unica cosa che ho cambiato è il PTT, perché si era rotto quella specie di plastichetta, allora c'è la molla lì, non bloccava, ecco, allora gli ho sostituito il PTT. Ho capito. Sono microfoni che costano cari, però sono anche, non dovrebbero essere di qualità, eccetera, anche perché ho detto che ce ne sono dei due tipi, perché la gente chiedeva, no? Quando tu senti capsula ceramica, la capsula ceramica è discretamente costosa, non so se ti ricordi quella realtà NF3, quelli erano tutti ceramici che davano una buona potenza d'uscita, e lì invece senti che Elettre o è ceramica o con l'altro è LED, non si capisce niente. Vabbè, non c'è Gianni, Marco, come si chiama? Marco Liocco, Condor, insomma, questi qua, non c'è nessuno stasera, c'è stata a fare la spesa, c'era il mondo. No, io sono andato stamane presto, lo stesso c'era gente, sono andato alla Conad, ma tutti ho entrato e uscito perché erano le 8, le 9 meno un quarto praticamente, e già c'era la fila alle casse automatiche, a quelle normali non faceva già, poi quando sono andato via ho visto che stavano arrivando tante macchine, me ne sono scappato più di fretta che di corsa, che proprio sono passato lo stesso davanti a Bricoman, anche lì c'era già la fila da mattina presto. Sì, molta gente all'ultimo minuto, e da domani, se non sbaglio, non si può, da domani che non si può circolare, sì, da domani zona rossa, sì. Fino al 27, Marina, fino al 27, è la zona rossa. Fino a quando? Sei fino al 27, meno male, io ero convinto che domani potessi uscire perché volevo, tra virgolette, andare a fare un giro, faccio un po' d'autores, ma fuori dai comuni non si può andare a quanto pare, quindi me ne rimango a casa da tanto, oramai abbiamo capito che l'andazzo è quello. Sì, ma infatti anche noi rimaniamo a casa, tanto la cosa l'abbiamo fatta, che se ne frega, abbiamo fatto tutto. Dai, io mi aspetto Gianfra, se magari entra dopo Claudio, già è tutto acceso qua, mi sposto dalla camera, arrivo magari dopo, dai. Ok, va bene, caspita, le 7 anch'io, forse non lontano, vediamo un po', provo a prendermi qualcosa per la gola. A dopo, ciao. Ciao. Può diventare un problema. si gira le balle perché ho fatto un impianto ad hoc qua, tutto calcolato, tutto fatto bene, adesso c'è questo rientro di RF, ma di medusa, ma che pindaccio di merda, giovinzio, stavo andando tutto di lusso, non lo so, vabbè. Microfono non c'è niente, l'ho aperto, l'ho controllato, proprio un rientro di qualcosa, non so. Controllo la tele stazionaria, non c'è mai. No, c'è una stazionaria qua, no. Lo faccio quando passo qua con i baracchini, adesso ne sto usando un altro. E deve essere la commutazione, sicuramente. Sì, sì. Per andare bene vorrebbero tutti i driver, ma costicchiano un po'. Sì, costicchiano, Dio, a me. Speso già un capitale per fare quest'altra base qua, figurati ci metto a comprare anche i commutatori d'aiva, è che ho fatto male a dare la T230, che avrei commutato tutta una lì, guarda, era una cannonata, tutto schermato, tutto a posto, non me ne facevo niente, l'ho venduto. È un peccato proprio. È un peccato sì. Prova a andare per esclusione. A una alla volta, Scollini. Ecco, gli sto facendo. Aspetta un attimo. Hai sentito il rumore di alternata? Ma più che altro sembrerebbe un corto. Cosa sembrerebbe? Un corto. Un corto. Beh, risolto hai. Per il ve. Sì, lui, però c'è un rientro di RF quando attacco, quando commuto, capito? Non so perché. Aspetta un attimo. Una volta una cosa del genere mi ha fatto diventare pazzo. E poi che cos'era? Una saldatura fredda. Ma cosa fai, Rudy Polo? Cosa? Ma non stai trasmettendo solita antenna. No, facendo prove. Devo fare degli spostamenti, devo portare radio anche sui mansarda. Ah, ho capito. Sono con... pochi watt. Oh, ma dico... Come si dice? Cioè, non sei con la Mantova? No. Ma chi su mi si arrivendi così poco? Sei poco canto. No, vabbè, sei sempre 9:15, dai. Invece con la Mantova 9:30. Già lo credo io. Gappa, ma cambio anche io di segnale. Forse perché non è puntato verso di me. Aspetta un attimo. E io? Adesso c'è ancora un altro, ma come il segnale? Buono. Avanti. Sembrava. E adesso un'altra cosa. Aspetta un attimo, sta chiamando mia moglie. Che? Va bene adesso? Adesso ancora il baracchino però. Sì, va benissimo qua. Adesso c'è la Mantova e il baracchino, dai, 4 watt. Va la grande. Cos'è questa cosa? Ah, ecco. Ma io che se ti chiama o sei tutta tanta Italia? Non c'è mai un abisso, beh. Cernaio aperto. La radio va bene. Ora. Dai, ottimo per la truppa. Gappa, intendia che c'è cosa, intendia? Questo venticello agita, cosa è c'è cosa? E c'è un cernaio aperto. Oh, vabbè. Ciao, già raddutto a tu. Gappa, già fatto. Alice, ieri sono riuscito a parlare con Alghero. Sono incoglionendo, ti stai a... Ah, così giovane, non c'ero io, è quello un mio amico, capito? Ho detto, vabbè, c'è Antonio, vedo un po' se lo ascolti. In FM già ti sente, in FM non ti sente. Però sono soddisfatto, dai. Cioè, andare così lontano... Sono contento, va. Non ci sono mai riuscito. Già va bene. Caspita, te l'ho già detto, dalla posizione che sei, stai facendo anche miracoli. Lascia perdere, già va bene così. Oh, in effetti io ho sempre fatto i miracoli, anche latte dolce, per farmi ascoltare. Se va giù zinco, MB più 5, ogni tanto ne schiaccio uno e la radio è spenta, cazzo. Anche qua mi confondo ogni tanto, perché ne ho due uguali di microfoni. Vabbè, ma uno è davanti a una radio, uno davanti a un'altra. Ogni volta ti pongo le mani l'altro microfono che la radio è sudata. Ciappa, dimmi stasera, già, sei svegliata. Andiamo un poco. Voglio questa qui che mi hanno regalato. Che ho fatto un affarone, ho fatto, Cioè, con un gelo fa 30 la cattura. Vabbè, molte volte capita qualche occasione anche per me. Certo che capita, non si gli occasioni, tu ci mancherebbe altro. Sarà una grande radio, però cammina a putti. Già funziona. Sono col tracco molto stasera, la mazza che ne è in varia. Stanchissimo qua. Cos'è tanto scusa che mi aveva chiamato mia moglie, cos'hai detto? Ho detto che sono stanco morto, sono gribato. Non vuoi avete lavorato? Te ne sei bizzato, Zane. Perché magari il montagente si è preso la doppia bombola, capito? Cappa. Tutti gli anni si lavora parecchio, si lavora molto. Meglio così, Anto. E se non travagliamo a nadare quando travagliamo a 8. Aspetta, fammi sedere. Sì. E tu immaginati che l'aria ha chiuso alle 6, sono smontati di rovare. Tutti i tavolini dentro, ombrellone, i gazebo, tutto stanno smontando. Devono rimanere 15 giorni chiusi. Poi ti distruggono tutto, capito? Ancora nella rivida. Beh, se non passa gli si babbanzoli a rompere le balle. No, questa sera, ragazzi, non passa niente. Rubizzino, ci sono altre due ragazze. Ce n'è di gente stasera, fino a passano che per Mariolino, vai, ti la dice a Rigavani. Oh, che faccia la polizia, faccia. No, già c'è il ragazzo che non c'è bisogno della polizia. Già in mani pigianti. No, non è compreso, passa a rompiti di yo-yo, ma oggi in Chibi, in via Rizzetto, che so. Angolo via Napoli, chi so pare che vai, caffè degli artisti, sono passato a rompere i cattoli. C'è una buccia una bombola qui lì a numero 1, 0%. E sono andato a rompere i cattoli la polizia. Vuol dire che, non so, la mia figlia vanno a prendersi il caffè. Non ce n'è problema, quando sei in regola e hai tutto sotto controllo, non è che ti devo rompere le scatole, non ti ho capito. Caffa, cazzo, che brutta cosa, mamma mia. Ma te, ma veramente, 15 giorni sono tosti, eh. E non dire a me, no, anzi non dire a lì, tosti sono. Cazzo, l'affitto male di pagare. Cappa, non è che ti puoi dire a Ghito. A Ghito non è che ti puoi dire, che c'è un mese non ho lavorato, non ti pago l'affitto, anche che se io per cuore mio le avrei detto datemene la metà, perché io non le capisco certe cose, non è lavorato, la capisci. Dammene la metà per questo mese, no, non mi interessa. Perché io la ragiono così, cioè. Non ne guarda, non ci avrei il coraggio, me. Poverotto, 3.000 euro l'affitto c'è lì, cosa pensi, se ne esecuto il tuo euro, non è la metà, tutti così sono via a Roma, tutti, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 2.800, 3, dipende dal locale, quello già l'hai visto, è tre piani, c'è il bar sotto, tu già ci vai spesso, poi c'è la saletta sopra, c'è un'altra sopra, quindi, vabbè, pazienza, per quest'anno è andata così, vuol dire, invece di 30 se ne mette in tasca 10. Lo so, cazzo fa lo stipendio anche tu, hai tu mamma mia, carità, a questa gente qua. A tu, quelli hanno investito, hanno, chi c'ha cose, come si chiama, io sono Rauco. Chi ha locali commerciali guadagna una barca di soldi, tanto gli affitti sono molto molto cari. Capito? È così. Va bene, dai. Solo la rottura di balle che sono aperto a maggio, poverini. A maggio hanno aperto. Cazzo d'ora Raserrati. È impressione di Sarriani. Vabbè, per quest'anno vuol dire. Ci hanno rimesso. Vediamo il prossimo anno cosa succede. Lo so, è a recuperare i soldi. Casino, capo. Un casino vero per me. Non te ne dovrebbe nessuno che si dina. Cioè, poi a pagare l'affitto pure, chiccio. No, io sinceramente non mi rendo, cioè, sinceramente io per come la penso io, qualcosa gliel'avrei tolta. Cioè, non me la sarei sentita di far ripagare l'affitto intero. Cioè, perché questo è per come la penso io e per come me l'ha arrangiato e per come la penso io, la verità. Cioè. Anto, non ho vergogna a dirlo, 15 giorni di chiusura, quel bar sta perdendo 12-13 mila euro. Quindi fatti i conti tu, con la calcolatrice avrai quanto incassano al giorno. Sta perdendo 12-13 mila euro. Senza così mi fatto tambala e tambala. Quindi immaginati tu, 15 giorni di chiusura cosa vuol dire? Sì, ma io non me ne rendo conto, perché io lo so quanto lavorano quelli lì, lo so perfettamente quanto lavorano quel tipo di bar lì, perché l'ho visto anche in passato e so come funziona. Lo so, può essere nuovo, sono quattro ragazzi eccezionali, infatti si chiama 4.0, già lo so. Sono quattro colleghi, tre colleghi. colleghi, senza Enzo, ma Enzo si conosce molto bene con Ilaria, quindi ci sono tre colleghi, capito? Tre ex colleghi che hanno voluto fare questa cosa. E ti dico che sono veramente contenti, Ilaria è entusiasta perché stava lavorando benissimo e sta lavorando benissimo, alla grande, è entusiasta veramente, infatti aveva deciso di cambiarsi la macchina quest'anno, oramai. Non fa più. No, beh, pazienza, gli ho detto, stai serena, no, io sono tranquilla, che mi gira le balle, che perdere tutti questi soldi, capito? Per un'attività che sta iniziando, è un casino. Cappa, lo so. Vi daremo gli aiuti! A dei doggian a te, di ridoggiane, a te e a chi si tre o quattro imbecille. Cioè, veramente sono arrabbiatissimo, sono. Lascia perdere, una collega di Ilaria che lavora al McDonald's, un ex collega, cazzo li sono arrivati adesso la cassa integrazione di giugno mi sembra, o di luglio, già cazzo è, boh. Una cazzata, capito? Una cazzata. Manco lo dammo di nuda, beh. Indignato veramente. Ah, che oramai, ma io mi... Boh, sarà anni fa, ci sono state queste cose qua, come si dice, di malattie così, tipo questa epidemia così, se ce le ricordiamo anche negli anni 80, negli anni 90, ci sono state queste cose qua. Cioè, eppure tutte queste cavolate non hanno bucato rubane alle persone, per quanto mi ricordo io. Lo so, però questa è una cosa seria, una cosa che se riusciamo a capire, cercare di capirci, tra l'altro adesso poc'anzi io sono uscito col cane, ho salutato uno del palazzo, stavamo parlando, l'altro sei, non sono a casa io, mia moglie, mia figlia e basta, non può venire neanche mamma, nessuno, perché abitano lontano. Dice, a differenza del mio collega che mi ha detto che è a casa sua con la moglie, i due figli piccoli, e poi dice, a una certa ora ci raggiunge mia sorella, mio fratello, saremo un 12, 13, 15, capito? Hai compreso? Sì. E molti sono già festeggiando, insomma. È un casino, noi c'è a casa di... C'è invitato a casa il mio suocero e... Ma non vado io, oltre per altri motivi. Ci hanno invitato, ma non ci andiamo. Io domani mi cometti fino i travagliami, ne vengo in occhi, non me la fotti nuda. Non ha giudicia in giro, no? Beh, molta gente fa il pranzo, capite? Fa il pranzo e va bene, però non puoi fare altro. Se la messa che dava la mezzanotte, non venne mezzanotte, ma sono stata alle 8, fatti conto. Alle 8 di sera c'è la novena, era quando in qua. È un secolo che si fa la messa di mezzanotte. È tutto un casino e vabbè, pazienza, è andata così. Cappa, mamma mia, no, veramente, incredibile, incredibile. Cioè, sono, non so neanche più che cosa dire, cioè, tutte le tradizioni, tutte saltate, ma cosa c'è, mo? So, tutte le tradizioni saltate, tutto a casino, però ti ripeto, se ne usciamo sarà un miracolo. Sì, non avrei mai uscita in Sabucaria, cioè, secondo me ci stanno facendo anche, come si dice, la più tragica di quella che è, secondo il mio parere. Sì, mi stavo... Sfruttando il mio borocino. cucinina, via. Sento la macchina, il fischio della turbina, mia figlia sta parcheggiando, è arrivata finalmente. Eccapa. Cos'è la turbina appena appena? No, quella fischierina, sento. Sento tutte quante gravate c'è la macchina, poi questa brucia. Quando ci rifami, Sì, a pompa già. A pompa, tutta una giuccia a Maiena, con la BMW, ci ringhiriti ogni voce. Davvero? Sì, davvero, un barragione, la gioia. È molto pesante. È molto pesante, anche se ha gli stessi cavalli. Anzi, mi pare che abbia 10 cavalli in più o 20 cavalli in più, ma è un bel pesante. Capito, uno station wagon, la mia vola, vola tu, non c'è giudica vola. Sì, poi per il saputo che motore Fiat c'ho più Alfa, vabbè Fiat diciamo che sono più allegri sono. Sì, quello è Alfa Romeo, cioè metto a posto sta medicina. Vabbè, Alfa Romeo però è sempre un motore Fiat, è un 1009. Montano anche altre macchine, ma finge che è la mala sorte il quel Comorrelli. Sì, magari faccio Comorrelli la mia. La mia è un GTDM 16 valvole, 1009 GTDM 16 valvole, 150 cavalli, una bella bestia. Cappa, mi ricordo io, c'è il sistema Comorrelli quella tua. È un GTD. GTDM, capito? Non so cosa voglia dire, però è un 16 valvole, un 16 valvole, come un rail, è diverso, KK, dai Anto, io ti lascio che vado a mangiare, che è arrivata mia figlia, ok? Così lo vado a mano, sicuramente ne ha portato roba anche dal bar, ci sentiamo dopo al limite, ciao! Ok, comunque ce lo dice la parola stessa, GTDM, con GTD come un rail, ce lo dice la parola stessa, ok, ciao ciao. Ehi, boccia riuscita, ci sentiamo dopo. Ok, e chi è? Beh, è il tuo. Poi Tony, buonasera. Buonasera anche a te. Ehi, mi, c'era poco fa, c'era Claudio, c'era. Io sono entrato adesso in camera. Tappa. Oh, sono a pezzi stasera, a pezzi cazzo. Ui, a sacco morto. Ma io ho mancato fino alle 11 e mezzo. Poi ho fatto una posta in provincia. All'una e 20 me ne sono andato via. Sono in ferie, adesso rientro il giorno 4 gennaio. E andate? Beh, tanto mi sento che ferie non le fate. No, questo periodo si travaglia a voce. E oggi? Domani già lo sai che... Cioè, potete portare a casa le uomini, giustamente, però le persone non è che possono uscire tutte. Lo so. Domani sicuramente ci sarà più richiesta a casa. Ma oggi è stato grippato proprio. Abbiamo travagliato un bel. Ma è possibile che vi ho visto zona Pedagnina oggi? Scendendo giù da Cogio. Siamo scesi giù a caricare la Liquigas. Non lo so, io vi ho visto già luglio era comunque. Ho visto la strada, con l'uomo, ho detto, ma non sarà tu di chi vino. Forse non eravamo noi perché a Pedagnina. Cioè, sono sceso giù allo trainetto a caricare e basta, poi non sono più sceso io a Pedagnina. Andrà bene. Quello noi abbiamo, quello con la scritta gialla abbiamo. Capito, allora non me l'avete lui. Papà. Niente, io ho girato, vado a mangiare i miei piccolini. Piano piano mi sono pintato, ho preso un bel pollo rosso e pezzo per pezzo ho eliminato tutte le ossa, gli ho dato la coppa ai cani e ho preso due vizio di gatto. Davvero? Io inizio, e allora? E cagnetti già. E io sono più minore nella storia. Quanto mi vogliono bene, io. Già lo credo, ti devono voler bene, perché tu a loro li dai tutto. mattina, la carezzo la pancina, si mette a pancina alto, e le coccole, uno e l'altro, tutte e due, e vuole dirsi. Stamattina trova, aiuto, io sono andato a lavorare, e da domani sono in fila, sono vicino a voi tutti i giorni, così dicevo. Cappa, beh, sono i tuoi figli. I tuoi figli sono, i tuoi bambini, dai. Più o meno, dai. Cappa, andrà bene. E così. Noi quindi adesso con i figli. Ma mi ha messo pioggia domani, ya. Cosa? Domani ha messo pioggia. Oh, non lo so, no. Ora, ora. Ora, ora, la mazza che tieni a fare, non mi stavo ascoltando un po'. Cioè? E mi stavo ascoltando col portatile. No, io mi ascolto in cuffia, io metto il palmo con te e mi ascolto in cuffia. Cappa, no, era, volevo fare una provettina, volevo fare, vedi come si da. Allora. Centro, così. Sì. Avanti, sei tu, sì. Effettivo che sia. Non pensavo che c'era qualcun altro. E Gianni, non è entrato. Sicuramente entrerà dopo. Cavolo, già spinge questo microfono, però. Pensavo peggio. Già, vanno bene i microfoni. Intanto incontro la batteria, già efficiente col tester, ok, va bene. Questa batteria non ne ha. Microfono normale, perché come microfono normale che ho io, che è per compresso l'ultimo. Cappa, è già potente da sé la radio. Cioè, già va, spinge già da sé, capito? È come l'altro che c'ho. Sono precisi, solo che questo è normale, l'altro c'ha l'eco, c'ha tutto. Io ho tutto quanto qua nei galassi, c'è tutto, non c'è bip, eco e bla bla bla bla. Rosmetro, battetro. Se ha voglia. Vabbè, mi ha regalato, mi c'ha parecchio. E me lo sfrutto. Si guarda regalato, già va bene. Andrà bene, sì, da domani in mattinata mi cerco di sistemare tutta la stazione. E poi domani sera vado a farmi la vigilia di Natale. Andrà bene. Domani sera? Capo, l'autocertificazione mi faccio. Dove andi? Con i tuoi figli? Nella casa mia, l'altra. Nella mia ex, con mia figlia. Ah, sì, sì. Andate d'accordo, sì. Anche io c'era con me, già ho fatto con di spesa, io sono cugnadino, un pare. Ah, ho capito. Soltanto che se io voglio andare a vivere con lei di nuovo, la roba mia è troppa, dove la metto? Non ci sta, capito? Siamo già mezzo tornati insieme, non c'è problema. Ah, sì, sì. vabbè, Tuni, cosa vuoi fare? Molte volte succede che qualche problema, qualche cosa, ma già si risolve, là. Alla fin fine. Sì, tutto qua, sulla grande. Niente, ti aspetta un po' che vado in pensione. Col TFR, poi ci vediamo con la casa, prendo una casa più grande, perché sono in campagna, le vicinanze di Sassari. A me mi posso fare anche, che ti posso dire, una bella casa, come dico io, in legno, per mettere tutta l'attrezzatura che ne ha giù brutto, brutto, brutto. Sì, qualcosa dovrei inventare. E allora? Radio, giornalista, la tua magazzina. Cappa. Pure noi anni fa, comparendo, avevamo un magazzino pieno di roba alla casa di mio padre. Un indomani sarà tutta questa roba mia. Io a mio figlio ho detto, un domani che non ce la faccio più, ti regalo tutto. Adesso mi hai risposto. E cosa mi devo prendere? Un tir. Ma detto! Mi devo prendere un tir. No, io prenderò un magazzino perché cioè io sono una persona che come te un po', che mi pongo a fare un po' di tutto e quindi non c'è cosa che non mi piaccia, la passione anche me. Sì, ma tu devi capire che io tanto vado in pensione, quindi voglio tutto sotto il culo, capito? Casa mia, quando è pronto a mangiare mi chiama, via, magna, però sono lì che lavoro, non mi muovo, capito? Faccio dei lavori che devo fare. A me andare in un altro magazzino a mettere la roba mia, no, non mi piace. Io la voglio sotto il culo la roba. Ti voglio dire, quando tu gli hai detto a tuo figlio, quando papà non ce la fa più, ti do tutto a te. Siccome magari a lui magari non gli interessa, non lo so, o non gli piace fare certi lavori, però se nel caso dovesse succedere invece a mio padre, è come se me la piglio la roba, perché io invece no, sono molto creativo, molto, è all'incontrario, capito, sono un po' come te, è cosa ti voglio dire. Ok, poi se la vuole prendere, se la prende, faccio quello che non ti piace, se la roba che mi interessa di più è buona, capito, quindi come la cicola da Marco non penso che la userà, e neanche quella truccatrice, quella grande lo stesso, bella, 45 gradi tutto, vabbè, le voce che sono il male bianco, se quando io me la sento, ok. Perché te la senti sta roba duia, sei tranquillo, ah, se stai bene, allora auguriamoci il meglio, almeno va sempre bene. Non gli piace fare quei lavori lì a tuo figlio? Ma lui più che altro è magazziniere, capito? Quindi no, non è come me, io faccio tutto dalla A alla Z. Io i primi anni che sono entrato ho fatto sempre manutenzione in generale, dalla A alla Z. Ho imparato tante cose, poi tra l'altro fisso elettrico idrico e boh. E quindi lavori ne ho fatto molti, molti, molti, molti. In 23 anni ci sono sui bombaggia. Adesso mi ha solo a riposare. Oggi mi ha dato un pezzino nuovo, pezzino, a 40 anni. E ho detto che lavoro fai tu? Idraulico, eh? E allora oggi qualche cosa te la fai, dai. Ho fatto fare a lui e boh. E mi sono busato. Beh, pure i giovanotti devono travagliare, devono imparare, devono fare certi lavori. Ha fatto cae di docca, tu ne hai fatto troppi. Beh, insomma, posso io. E oggi ero lì mia Istria, succursale magistrale, la mia Bidella Antonella. Signora Antonella, ma a me mi devi chiamare Antonella, buona, che mi chiama Antonella, mi fai più vicino di sui soldi. Quando metto l'età, vai che non ci credo, che sei più giovane, che mi intendia. Pure io sono molto creativo, anch'io me la sabbia piazzata l'antenna. Noi quelle lì non ne ho mai piazzato io, mi sono gubuccio, me la ci ho fatto io da solo. Cioè, a giù ho sempre spiazzato la Storm, cose. Per dirtene una, sempre quelle antenne così. Da poi mi sono piazzato la boomera, me l'ho piazzata io da solo. Questa grande così, due me ne ho piazzato da solo. Quando ho capito anche il difetto che ho, infatti mi devo mettere. Cioè, per dirtene una, e no che ho fatto lavori. Cioè, io se mi acciamba un tubo, me lo cambio da solo. Quando abitavo a casa con babbo, lo scaldabagno, ne ho cavavo io, cavavo, cioè, lui mi aiutava, cioè, lui non ce la fa quasi più. Cioè, molte cose, anche pesanti, già. Tutto io mi va via. Cioè, io sono molto creativo, a me mi piace proprio. Sono, sai cos'è, mancata di tempo. Io sempre arrangendo i miei nocchi. La prestazione tutta io me l'ho fatta, gli ho piazzato la cindicigare, tutti i collegamenti. E fate queste cose. Guarda, cambiare scaldabagni è il solito routine delle scuole, quindi ce ne sono tanti, ogni tanto si guarda a cambiarle. Però quello da 20 o 25 euro a 50 io lo cambio. ma da 80 non ve la posso più, in due se sono solo non ne faccio. Devo svuotarli e poi sganciarli, tocco l'elettrico flessibile e poi lo scarico, capito? E poi lo sgancio. Ma quando sono quelli grandi grandi no, la cabine, che non è per me. Quindi basta così, mi ha fatto anche troppo, guarda. Io ho 64 scuole in tutta la provincia di Sassari. Cappa. Io mi sono io quando dice da fare questi travagli, mi rubi il rasuro, vabbè che cioè, va giù 36 anni, cioè, la voce non mi manca, cioè, ancora sono giovane, magari quando avrà giù le dai duglia, logicamente mancherà anche quella. Anzi, da perché io domi, lo piglio nel tratto da lavoro, me lo piglio da solo. No, Antonio, allora, io la porta ce l'ho ma non la posso sviluppare perché ho tre nel disco. Adesso come mi opero, che vado a gennaio, allora è diverso. Poi mi mando minimo un mese a casa di riposo quando l'ho operato, capito? A me che mi frega che è l'ernia, che mi fate troppo male, tutta la gamba, quindi no. Io ho i pesi limitati dall'ospedale, io più di 12 kg posso sollevare adesso. L'altra volta che mia collega ha svoltato un motore autoclave, l'ha sbucciato in braccio, me l'ha sbucciato la macchina, ma ha detto tu sei Marco. Ma esatto, Bisa. Ah, tutti i diti, con la voce azzurro. Telefono, Marco. Via, ok. Ehi, Gratto, tu sei? Che avanti? Cara che frucendi in occhi.